Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, dalle ore 20:10 circa alle 21:30. Andiamo ora con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero Retribution the Behind Enemy Lines. No one escapes, Winston. There are no martyrs here. All the confessions made here are true. We do not destroy the heretic because he resists us. As long as he resists us, we never destroy him. We make him one of ourselves before we kill him. We make his brain perfect before we blow it out. And then, when there is nothing left but sorrow and love of Big Brother, we shall lift you clean out of history. We shall turn you into gas and pour you into the stratosphere. Nothing will remain of you. Not a name in a register. Not a memory in a living brain. You will be annihilated in the past as well as in the future. Bene, chiedo scusa, non è il brano che ho annunciato, quello ovvero della sigla Retribution the Behind Enemy Lines. Cioè, la band è sempre la stessa, ma purtroppo cause tecniche mie di sguidi ho messo il brano successivo, ovvero Gluttons of Prisoners. Ora andiamo invece con questa band canadese, da questo loro unico album uscito circa 3 anni fa. Loro sono i Prying Hands. Darkness is barely contained under all of me. L'evasione dal carcere di Treviso, il 2 gennaio 1977, seconda parte, dal libro Un contadino nella metropoli di Prospero Gallinari. Evasione possibile. È una serata particolare quella, anche per la TV. È prevista la prima puntata dello spettacolo di varietà di Benigni, Onda Libera, la famosa televacca mai ufficialmente chiamata così per via della censura. Si tratta di un'autentica novità per i programmi televisivi e questo vale ancor di più per il carcere, luogo in cui la televisione rappresenta un incomparabile elemento di distrazione e una delle poche finestre sul mondo. L'operazione parte dalla sezione penale. 10 prigionieri coinvolti nel lavoro sono in quel reparto. Ci dividono 2 portoni, 4 cancelli e un corridoio dritto lungo un centinaio di metri. Il mio compito è controllare attraverso lo spioncino del portone del giudiziario il momento in cui i nostri compagni riusciranno a uscire dal blocco penale e la cosa finalmente comincia. Uno di loro ha simulato un malore improvviso e tutti insieme sono già oltre il primo portone. Do il via nella nostra sezione. 2 detenuti che nel frattempo stavano chiacchierando disinvoltamente con le guardie in servizio estraggono i coltelli e le costringono a seguirci. Siamo di fronte al lungo corridoio. Dall'altra estremità, con le armi spianate, una decina di guardie e il brigadiere nelle mani, gli altri prigionieri avanzano per aprirci il portone. Si prende l'infermeria. C'è anche il ragazzino del pallone che al nostro ordine siede disciplinatamente a terra contro il muro col sorriso sulle labbra. Poi è la volta del dormitorio delle guardie. Un paio di loro stanno arrivando dalla sezione minorile e si insospettiscono sentendo rumori non abituali. Attendiamo per qualche infinito secondo dietro il muro. Non vola più una mosca. Le guardie si tranquillizzano ed entrano nelle camerate. Prendiamo anche loro. L'interno del carcere è ormai sotto il nostro controllo. Ma il portone d'ingresso all'intercinta di qualunque penitenziario, anche se allora non erano ancora state inaugurate le supercarceri, non può mai essere aperto dall'interno. L'ultimo scoglio da superare è anche il più difficile, perché l'ingresso di un carcere è sempre costituito da un ambiente a doppia entrata, dentro cui stazionano guardie armate, una delle quali può aprire solo una porta alla volta e solo in base ad assolute garanzie di sicurezza. Lì sta il punto debole del nostro piano. La nostra speranza è riposta nel brigadiere che abbiamo in mano, o meglio, è riposta nel fatto che Montecchio, il quale ha già sparato un appuntato in servizio in un altro tentativo di evasione, risulti convincente. E l'opera di persuasione dà i suoi frutti. Il brigadiere, che ha fra l'altro l'abitudine di uscire intorno a quell'ora, anche quando in servizio, per prendere un caffè, suona la madre di tutte le porte. La guardia lo osserva dallo spioncino, tutto sembra tranquillo. Quando sento la chiave inserirsi nella toppa e cominciare a girare, mi sembra un rumore infernale. La libertà è davanti a noi. Dalla rastrelliera della portineria prendiamo fucili mitragliatori e pistole e chiudiamo le guardie in una specie di celle. Non mancano mai, che troviamo lì all'ingresso. Da quel momento inizia il fuggi-fuggi. Sono l'ultimo a uscire e devo tirarmi dietro la porta. Alcuni se ne vanno con una Vespa, un motorino, ma non ci sono automobili disponibili nei dintorni. La prima la troviamo ferma a un semaforo, a un centinaio di metri dal carcere. È una NSU Prinz, una macchina decisamente piccola, ma ci entriamo in sette, con un paio di MAB carichi tra le gambe. Se partisse una raffica in quello spazio così stretto e stipato, la strage sarebbe assicurata. Ma in quel momento pensiamo ad altro. Davanti al primo bar che incrociamo, ad alcuni chilometri dal carcere, ci sono parecchie persone intente a chiacchierare tra di loro. Fa un freddo cane, probabilmente hanno appena bevuto un caffè e stanno decidendo come passare la serata. Hanno delle macchine parcheggiate nello spiazzo circostante. Ci fermiamo e cominciamo a scendere. Osservano stupefatti la quantità di gente che sta uscendo dal trabiccolo. Dopo poco hanno altro a cui pensare, visto che le loro macchine, con le chiavi nel cruscotto, sono lestamente requisite. Percorriamo sparati un'altra decina di chilometri e troviamo un passaggio a livello con le sbarre abbassate. Deve passare un treno locale. Non abbiamo tempo da perdere e decidiamo di abbandonare le automobili fuori strada. Attraversiamo i binari a piedi e ci avviciniamo alle macchine ferme all'altro lato delle sbarre. Anche qui stupore e meraviglia dei passeggeri, ma i nostri metodi li convincono ben presto a regalarci le automobili. Siamo su strade secondarie, anche se asfaltate, alcuni chilometri ancora e i nostri autisti si affiancano per discutere sul percorso da seguire. Arriva una macchina in senso contrario e nel movimento viene leggermente graffiata. Noi tiriamo dritti, ma il proprietario dell'auto non sembra convinto. Compie velocemente l'inversione e inizia a inseguirci. Ha una macchina abbastanza potente e c'è subito addosso, intimandoci l'altra urla, clacson e lampi di fanali. Facciamo ancora un po' di strada e, vedendo l'inseguitore irremovibile, decidiamo di fermarci. L'uomo scende con grinta, ma quando si vede puntati contro una pistola o un MAB cambia atteggiamento. Pensiamo che una macchina in più possa farci comodo e così prendiamo anche la sua. Thank you. si dividono le nostre strade. Alcuni evasi puntano verso Bergamo. È la loro zona e la conoscono meglio. Io, Morini e Cecco abbiamo già deciso in carcere che la nostra direzione sarebbe stata Padova. È la loro città. Morini è un buon autista. Lo faceva di professione nella sua banda di rapinatori. La strada è stretta, piena di curve, ghiacciata in parecchi punti e infestata dalla nebbia. Sono parecchi testa a coda, ma il controllo delle ruote non sfugge mai al nostro pilota. Siamo ormai quasi dispersi nella campagna veneta, quando i due bravi ragazzi riconoscono uno dei paesini che stiamo attraversando. Ne avevano già visitato la banca in precedenza. Alleluia! Di lì il percorso per rientrare a Padova lo sanno a memoria. L'unico inconveniente è che la visita alla banca l'avevano fatta d'estate e ovviamente una via di fuga che si rispetti attraversa stradine sterrate, carreggiate nei campi, percorsi in riva al fiume, tutti i luoghi nei quali i posti di blocco sono altamente improbabili, ma che d'inverno, con neve e ghiaccio, sono ardui da percorrere. Sudando 7 camicie, sbandando 1000 volte, arriviamo comunque alle porte di Padova. Il ponte sulla statale, che passa il Brenta, è però già occupato da un posto di blocco. Decine di lampeggianti delle macchine di polizia e carabinieri tagliano l'aria. Decidiamo di lasciare la nostra automobile sotto il porticato di una casa di campagna abbandonata e proseguiamo a piedi. A 50 metri dalla statale c'è il ponte della ferrovia che attraversa il fiume, ma è troppo vicino alla strada. Quei lampeggianti rischiano di vederci. L'unica soluzione è attraversare il fiume passando sotto il ponte. È il 2 di gennaio e l'acqua alla cintola non è un godimento. Appena in città spadiniamo una 500 e ci mettiamo in strada. Siamo arrivati. Non abbiamo un punto dove andare, ma tante conoscenze da sfruttare. Iniziamo la ricerca. Alcuni amici sono da evitare perché può già esserci qualcuno di poco gradito in attesa nei dintorni. Ne restano comunque parecchi. Iniziamo a suonare. 1, 2, 3, 4. Non c'è nessuno da nessuna parte. A luna di notte ci troviamo come tre disperati, fradici d'acqua, parcheggiati in un cortile interno di un grosso caseggiato, a stramaledire le abitudini nottambule delle nostre ancore di salvezza. Lo stimolo della disperazione però acuisce la memoria. Il Cecco crede di ricordare che, sotto al finestrino del bagno di un appartamento nel quale vivono persone che conosce e del quale si fida, ci sia il tetto di un porticato sufficientemente basso da consentire di salirvi senza sforzo. Al massimo il bagno avrà il vetro chiuso. Basterà romperlo. Quando, intorno alle 2:30, i padroni di casa rientrano, ci sono tre persone nude, con una coperta addosso, ad attenderli. I vestiti erano fradici e ce li eravamo tolti, ma il mio corpo non sentiva freddo. Avevo un mezzo centimetro di sudore sparso su tutta la pelle come una barriera. L'adrenalina è un ormone secreto dalle ghiandole surrenali, ma forse, in certi casi, è anche un buon cappotto. Quanto ai padroni di casa, girano la chiave, entrano e sentono sussurrare. Tranquilli, sono il Cecco. Accendono la luce e ci osservano inebetiti, con un sorriso misto a incredulità. L'unica frase che riescono a articolare è una domanda: ma voi non eravate in galera? saluto a tutte le compagne e compagni all'ascolto di The Rings Magnetics anche da parte mia. E allora, lo scorso giovedì abbiamo parlato di CPR da questi microfoni e ne abbiamo parlato per denunciare l'ennesima morte di Stato, cioè quella di Moussa Balde, un giovane proveniente dalla Guinea che praticamente è stato suicidato all'interno del CPR di Torino. Questo ragazzo aveva subito un'aggressione brutale a Ventimiglia da parte di tre uomini italiani ed era stato portato, a seguito insomma degli accertamenti sui suoi documenti, nel CPR di Torino e lasciato lì nell'abbandono e nell'incuria, nonostante le sue gravi condizioni fisiche e anche psicologiche, e quindi è finita così. E appunto, lo scorso giovedì abbiamo parlato di Moussa Balde, ma abbiamo anche ricordato i altri morti ammazzati dal CPR in questi ultimi anni: Orges Touria, Vakhtang Enoukidze, Faisal, Majid El Khodra e altri. Abbiamo parlato anche del CPR di Gradisca e del suo ruolo nei respingimenti a caldo dalle navi quarantena. Oggi parliamo ancora di CPR di Gradisca e lo facciamo dando voce alla testimonianza diretta di un ragazzo che vi è stato imprigionato. Sei in onda? Sì, buonasera. Ciao, ciao. Come va? Ciao. Come va? Tutto bene, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, per iniziare io volevo chiederti, ti ringrazio intanto di intervenire, e volevo chiederti di raccontarci un po' quello che ti è capitato giusto una settimana fa tra Milano e Gradisca. Sì, giusto il mercoledì scorso. Sì. Buonasera a tutti, innanzitutto radioascoltatori, sono Andrew Zinski, ragazzo di Milano, residente da 13 anni in Italia, svolto scuole medie superiori, lavorato in Italia anche in base al mestiere che ho studiato. Ora, nella storia ho scontato condanne per degli sbagli che ho fatto da minore. Ma nella storia avevo adesso due espulsioni dall'Italia, contestate col giudice di pace, impugnate dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Cremona. Sì. Mi fanno un fermo mercoledì mattina alle 5:30, quindi fuori il coprifuoco, e mi dicono: tu hai una notifica di espulsione da prendere ancora. Nonostante, a parte queste due espulsioni, che comunque ne hai un'altra ancora. Mi fanno: ti devo portare in questura a fare gli accertamenti. Mi faccio: gente, nessun problema, andiamo a fare gli accertamenti. L'unica cosa, io alle 11, io di quel stesso giorno avevo un'udienza per altri motivi ancora, non per documenti, ma per altri motivi che dovevo prendere, delle altre udienze da sbrigare. Però cosa mi fanno fare? Mi fanno fare gli accertamenti in questura, mi fanno perdere 6 ore dentro la questura, quindi non mi fanno neanche andare all'udienza che avevo alle 11:30 di mattina. A mezzogiorno e mezzo mi portano in ufficio immigrazione, mi tengono lì fino alle 5:30, mi fanno un tampone e mi guarda. Alle 7:30 di sera mi caricano su una delle volanti e a 200 all'ora sfrecciano sulla 4 verso Gradisca, al campo profughi di Gorizia. A mezzanotte arrivo al campo profughi di Gorizia, mi danno il mio telefono in mano, mi fanno: da ora puoi chiamare chi vuoi tu. Scusa se ti interrompo, ti portano al CPR? Sì, al CPR. Sì, scusa, al centro di permanenza per il rimpatrio, di Gradisca, sì. Quindi, sì, ok. E lì ti danno il telefono, sì? Mi danno il telefono e mi dicono: da ora puoi chiamare e avvisare chi vuoi tu, a mezzanotte e mezza. Io l'avvocato ormai, poverino, non rispondeva a quell'ora, chiamato. L'unica persona che mi ha risposto, poverina, era mia mamma. Sì. E l'ho avvisata che ero lì, che mi hanno portato in questo campo profughi e che domattina cercavo di chiamare l'avvocato, chiamare lei e cercare di risolvere questa situazione qua. La mattina dopo chiamo, tra l'altro, mentre chiamo l'avvocato il mattino dopo, Sì. Faccio il filmato e gli mando il filmato all'avvocato per fargli vedere un attimo in che situazione stavamo. Le condizioni del posto. Le condizioni tutto del posto. Certo. E nel frattempo l'avvocato manda tutte le PEC, tutte le documentazioni alla questura sia di Milano che di Gorizia per fargli vedere che tutte le espulsioni erano impugnate e le carte avevo tutte in regola. Tra l'altro... Tu avevi anche vinto un ricorso, giusto? Contro sì, l'espulsione. Ho vinto già un ricorso e l'altro ancora in atto da vita, certo. da vincere, da completare. Uh-huh. Adesso cosa succede? Mi tengono lì fino alle 6 di pomeriggio di giovedì scorso. Sì. Alle 6:30 mi portano in infermeria, arriva un maresciallo, mi guarda e mi fa: preparati tutte le tue cose, sei libero, puoi andare via. Abbiamo sbagliato. E io li guardo e faccio: ma mi scusi, cioè voi mi avete fatto arrivare fino qua 200 all'ora sulla 4, non avete neanche avuto tempo né di controllare né computer né niente, ho dovuto chiamare io mio avvocato, mi avvio le carte e tutto, e io adesso devo tornare da solo senza né soldi né mangiare né niente, devo attraversare mezza Italia per tornare a casa. Mi fa: no, ma questi non sono problemi nostri, la risposta della gente. Morale, un attimo solo, mi scusi. Sì. Niente, morale, come stavo raccontando, torno, ho dovuto perdere un'altra nottata, arrivo la mattina, venerdì mattina alle 8 a Milano, del giorno dopo. Vado in negozio da me dove lavoravo, che io faccio riparazioni di borse, facevo riparazioni di borse e di scarpe, sì. Quindi faccio solaio per lettiere. Uh-huh. Dopo mezz'ora che ero al lavoro vado a sbrigare delle commissioni in banca, mi chiama il mio socio di lavoro e mi fa: guarda che sono venuti due poliziotti in borghese, sono venuti a sparlare dietro, che mi hanno detto di non tenerti qua al lavoro, cioè mi hanno cominciato pure a perseguitare fuori nella mia vita privata, sul lavoro, su tutto il resto, perché adesso non posso neanche più lavorare perché non avendo né contratto né stando in regola, cioè sto lavorando da privato, sì. Con i poliziotti che mi vengono in negozio mi dicono: no, tu non lavori più. Non posso neanche, cioè, come faccio? Ti mettono in difficoltà anche col lavoro? Sì, mi mettono pure in difficoltà col lavoro e tutto. Quindi non hanno mollato, hanno dovuto mollarti, diciamo, no. dal CPR, però non hanno mollato la persecuzione contro di te. Mm-hmm. No, pure a Milano ci sono attaccati. Mm-hmm. Ma poi per che cosa? Perché magari... cioè... Non si può tenere gente così, c'è una situazione degradante dentro il gradisca, tengono persone con lucchetti, sì. con i lucchetti come i cani, cioè manco in carcere c'hai i lucchetti sulle porte, c'hai le serrature, c'hai, sì, ma non i lucchetti. Non i lucchetti. Cioè lì ti mettono proprio il lucchetto come ai cani. Poi è tutto imbullonato e non ci sono nemmeno i materassi, no? No, e se esci fuori, se riesci ad uscire fuori, c'è il militare già fuori preparato a sparare. Mm-hmm. Perché non esiste. Sì, sì, è particolarmente uguale a un lager. Vista come cosa, io mi meraviglio, ho girato campi di concentramento per curiosità personale quando ero più giovane. Sì. Vai a vedere i campi di concentramento, non so, Dachau, Birkenau, Auschwitz, uh-huh. In giro per l'Europa, e tu poi ti guardi nel XXI secolo e succede ancora nel XXI secolo quello che succedeva 70 anni fa, ma sì. Ci rendiamo conto, solo che, cioè, magari tanti italiani non lo sanno, non se ne rendono neanche conto, perché non se ne parla, non si dice. Infatti. Ma io che sono straniero, che comunque sono da 13 anni, io dopo 13 anni che sono in Italia, come vedono i miei documenti, mi hanno coraggio di rompermi le palle, c'è il rischio di andare in paese da me dove ho già casini, che sono già scappato dal militare da lì, e sì, si rischia se sono in paese prendermi 5 anni di condanna lì perché sono evasore renitente alla leva, sì. Mm-hmm. Che poi è una cosa che ti fa onore, il fatto di essere renitente alla leva, dal nostro punto di vista. Sì, grazie. No, volevo dirti, tu avevi già avuto esperienze di CPR? Eri già stato dentro? No, no, ho scontato, ho sbagliato nella vita, per furto, quindi ho scontato una condanna in casa. Sì, sì, però non eri mai stato dentro un CPR, quindi sì, sì, era la prima esperienza. Prima d'ora mai, mm-hmm, mai stato in un CPR. Così. E il fatto che ti abbiano lasciato, comunque è stata molto brava anche la tua avvocata, no? Perché li ha messi di fronte, sì, al fatto che... è stata grazie alla mia avvocatessa che si è mossa subito, ha inviato tutte le PEC, tutte le... grazie alla Margherita, la mia avvocatessa, la ringrazio moltissimo perché è di cuore, perché se non fosse stato per lei e per le persone che stanno intorno a lei non ci sarebbe risolto nulla così in fretta. Io già mi immaginavo di passarmi un mesetto lì e poi ripartire sicuramente da me in paese. Beh, non ti avremmo lasciato da solo comunque se ti avessero tenuto, perché sì, saremmo venuti di sicuro fuori a far casino, e poi comunque sì, non finiva qua. Comunque per fortuna si è risolta in questa maniera. E ti hanno rotto le palle durante il viaggio di ritorno? Polizia ferroviaria, gente sì, così? Mi hanno buttato a Bologna da due intercity notturni, che i primi treni che arrivavano a Milano, mm-hmm, è arrivata a Polferi proprio sul binario, mi fa: no, tu non sali, io non ti faccio salire. Dice: scusi, ma come, mi avete fatto perdere... Sì. Già 48 ore della mia vita presso a uno sbaglio vostro, e adesso io non posso salire sul primo treno per tornare a casa. Che poi neanche, cioè, ad esempio, non so, in carcere ci sono regole, ci sono leggi, cioè ti dicono anche tipo, c'è la legge carceraria, sì, sì, il regolamento, sì, mm-hmm, il regolamento, a più di 200 km di distanza dal luogo di residenza non ci possono portare, giusto? E invece lì, sì, sì, invece lì 500 km, così 400, quello che è, sì, portato a 500 km di distanza. Ma secondo me, se ero tipo più scuretto, mi portavano direttamente a Lampedusa, in quei CPR lì, sicuramente. Ma secondo te loro ci hanno provato a portarti qua per via dell'espulsione, per mettere in atto l'espulsione? Loro mi hanno provato a portarli sia per mettere in atto l'espulsione che per magari intimorirmi, sì, mm-hmm, come cittadino ormai quasi italiano, perché io ormai, mm-hmm, sono 13 anni che sono in Italia, sono più anni che sono in Italia che quelli che sei stato là, sì, sì. Però magari anche perché sei uno che non si arrende, tipo, cioè che non si piega la testa. Mollato, sì. Mm-hmm. E quindi allora ti vedono un ragazzo ribelle, rabe. E beh, e lo colpiscono e cercano di colpirlo. Cercano di affondarti in qualsiasi modo. Sì, sì. Ti chiedo ancora una cosa, hai avuto modo di parlare con qualche altro prigioniero del CPR? In queste poche ore in cui sei stato, sì. Sì, ho parlato con altri, c'erano persone da tutta Lombardia, Padova, mm-hmm, tipo, ragazzi a caso, ragazzini. C'era venuto un ragazzo sempre dalla questura di Milano, un ragazzino di 18 anni, ma bravissimo, cioè, guardavo in faccia, sicuramente c'era mamma e papà a casa, era appena arrivato. Sì. Però si vedeva, non era un ragazzo magari scappato o qualcosa, perché era vestito bene, aveva una portazione, vedeva che non c'erano i genitori, qualcuno dietro, mm-hmm, zio, parenti. Si trovava presso sto CPR che non parlava neanche italiano, non sapeva neanche dove si trovava, poverino piangeva, noi ci abbiamo cercato di stargli vicino, calmarlo e tutto il resto. Sì, sì. Ma io perché ho magari esperienza di carcere, robe che comunque io comunque ho tenuto pazienza. Sì, sì. Ma io quando sono tornato a Milano io ho avuto tipo 2 giorni di rabbia che non sono riuscito a tornare, ma la risposta che mi è stata data dalla forza dell'ordine, sì, scusami, abbiamo sbagliato. Sì, sì. Ma la gente, mi scusi, io ho sbagliato nella vita, io ho pagato 1 anno e 4 di condanna per i miei sbagli, e li ho pagati tutti tra domiciliari e carcere.

Sì, prima del prossimo intervento concludo, diciamo, la parentesi che riguarda il CPR. Abbiamo ascoltato questa intervista con un giovane ragazzo che è stato imprigionato appunto nel CPR di Gradisca tra mercoledì e giovedì scorso. Una vicenda particolare che si è conclusa bene, perché questo ragazzo è stato liberato grazie al fatto che si trattava di un errore, il suo imprigionamento, un errore degli sbirri, chiaramente un errore non involontario ma doloso, in quanto appunto, come ci raccontava, c'è stata tutta una persecuzione prima e una persecuzione ai suoi danni che continua. E vabbè, il racconto era molto chiaro, molto importante, perché ha descritto anche la situazione dentro e tutte le condizioni in cui appunto ti prendono, ti deportano a 500 chilometri e poi ti lasciano e poi ti liberano e ti lasciano così senza niente a tornare non si sa come a casa. E poi importante perché ha sottolineato questa solidarietà e questa etica che c'è all'interno comunque di questo luogo, di questo lager, di questo luogo di detenzione. E ci ha parlato appunto delle relazioni anche tra prigionieri e del supporto che comunque all'interno le persone si danno, che è una cosa importante. E infatti ha concluso diciamo, non parlando solo della sua vicenda, ma cogliendo l'importanza di parlare della sua vicenda, perché non ci siano più queste strutture di detenzione, perché i lager vengano distrutti, perché i CPR non ci siano più e perché tutte le persone vengano liberate come giusto che sia. E sì, lo ringraziamo ancora, insomma, per questa testimonianza. Ciao a tutti, a tutte, e questa sera volevo riprendere il discorso sulla Palestina. E come probabilmente saprete, rispetto all'ultima volta che abbiamo parlato di questo durante la trasmissione Zaldis Magnetics, la situazione è cambiata, nel senso che da una fase di guerra aperta siamo tornati alla normalità, che sappiamo normalità in quella terra vuol dire l'occupazione israeliana. Fatto sta che, insomma, al di là di questo, al di là del fatto che l'occupazione continua, e poi vedremo in che senso, cosa sta avvenendo gli ultimi aggiornamenti, ecco, su quello che sta avvenendo in Palestina. E sicuramente quello che è avvenuto negli 11 giorni di conflitto aperto è stato molto significativo dal punto di vista degli sviluppi della lotta del popolo palestinese, nel senso che i palestinesi, nonostante un prezzo di sangue altissimo che hanno pagato soprattutto a Gaza, hanno parlato chiaramente di vittoria. Vittoria perché gli israeliani non sono riusciti a ottenere l'obiettivo del loro attacco su Gaza e annientare la resistenza, perché la resistenza ha continuato a combattere e lanciare razzi verso le città e gli insediamenti sionisti fino all'ultimo. Si tratta di più di 4.000 razzi Qassam lanciati dalle forze della resistenza da Gaza. E poi perché vittoria, perché tutta la Palestina è insorta, quindi la Palestina direttamente è definita Israele, insomma direttamente inglobata nello Stato di Israele, nel regime sionista, quindi i territori del 48, Gerusalemme in particolare, Gerusalemme Est, ha poi dato un contributo notevole allo sviluppo della rivolta. Pensiamo a quanto avvenuto nel quartiere di Sheikh Jarrah, che è riguardo alla moschea di Al-Aqsa, che hanno dato il via a questa nuova fase di lotta e di guerra di liberazione in Palestina. Poi quanto avvenuto in Cisgiordania, anche una Cisgiordania che è territorio dove domina, dovrebbe essere non solo sotto il controllo israeliano, ma anche con un esercizio di controllo mediato tramite i collaborazionisti delle ANP, e invece vi è stata una partecipazione anche in questo caso dei palestinesi, e poi naturalmente Gaza con la forza della sua resistenza. Ecco, l'episodio forse più importante dal punto di vista politico in tutto questo, significativo per la mobilitazione del popolo palestinese, è stato sicuramente lo sciopero del 18 maggio. Uno sciopero del genere non si svolgeva in Palestina dal 39, dal grande sciopero contro l'occupazione britannica. Si sono viste immagini di cantieri completamente vuoti, e la partecipazione dei lavoratori palestinesi dentro i confini dell'entità sionista è stata altissima. Palestinesi, quindi i cosiddetti arabo-israeliani, che hanno dato un contributo quindi forte a questa parte di mobilitazione, e si sono uniti quindi anche in questo senso con l'arma dello sciopero generale, alla più vasta azione della resistenza. È stata una prova di forza generale del popolo palestinese importante, è una prova di debolezza politica, se non altro, dell'entità sionista, e indebolita adesso in crisi politica, e che ha dimostrato si è dimostrato in quegli 11 giorni come la brutalità militare non riesce a piegare un popolo in lotta, e questa è una cosa che fa incrinare pesantemente il modello sionista, un modello che sappiamo esporta violenza, repressione, guerra imperialista in tutto il mondo e nei paesi, soprattutto nei paesi adesso più vicini, tra cui, insomma, l'abbiamo detto più volte su queste frequenze, anche l'Italia, legata da un trattato militare di collaborazione militare con Israele dal 2005. Come vi dicevo poc'anzi, uno degli episodi che ha segnato le recenti vicende della lotta di liberazione del popolo palestinese è stato lo sciopero del 18 maggio. Ecco, vi volevo leggere a tal proposito il testo che ha accompagnato questo sciopero, il testo diffuso in Palestina, che ha chiamato i lavoratori palestinesi allo sciopero. Palestinesi, stiamo scrivendo insieme un nuovo capitolo di coraggio e di rinascita, nel quale racconteremo la storia di un diritto che non verrà cancellato dall'oppressione del colonialismo israeliano, nonostante sia penetrato in profondità e sia sempre più duro. Racconteremo una storia semplice del nostro paese, il diritto di essere un unico popolo, un'unica collettività in tutta la Palestina. Le squadracce sioniste hanno cacciato gran parte del nostro popolo, hanno rubato le nostre case e hanno distrutto i nostri villaggi e successivamente hanno spezzettato ciò che ne era rimasto. Ci hanno separato geograficamente e ci hanno trasformato come se fossimo collettività diverse e separate affinché ognuno di noi vivesse in tante grandi prigioni. Così l'entità sionista ci ha controllato, così ha diviso le nostre aspirazioni politiche e ci ha impedito di portare avanti una lotta tutti insieme di fronte al regime coloniale di apartheid in tutta la Palestina. Così Israele ci ha sbattuto dentro prigioni isolate dal resto del mondo, una di esse nella sponda occidentale, Cisgiordania, è la prigione di Oslo, cioè ricordo i trattati di cosiddetta pace a suo tempo, che costituirono un tradimento della causa palestinese e la costituzione della cosiddetta autorità nazionale palestinese. Una dentro i territori del 48 ed è quella della prigione della cittadinanza, cioè i cosiddetti arabo-israeliani dentro i confini ufficiali di Israele. Un'altra caratterizzata con la guerra e con la crudeltà perenni, che è quella di Gaza. Poi c'è un'altra, isolata da parte di un processo di ebraicizzazione, ovvero Gerusalemme. E un'ultima, cacciata e sparpagliata in tutte le parti della terra. In questi giorni stiamo scrivendo un nuovo capitolo, il capitolo dell'intifada, dell'unità che perseguirà un solo e unico scopo, il ritorno dell'unità della società palestinese in tutte le sue peculiarità e in tutti i suoi campi, il ritorno per unire le aspirazioni politiche e le lotte per far fronte al sionismo in tutta la Palestina. Questa intifada sarà lunga, sarà un'intifada della coscienza più profonda. Spazzeremo via le scorie della sottomissione e del disfattismo e forgeremo le generazioni al coraggio e al principio che la Palestina è una. Sarà nostro nemico chiunque acuisca e resti devoto alle divisioni tra le élite sociali e politiche. Un chiaro riferimento, insomma, alle contraddizioni interne anche alla stessa borghesia e rappresentanza politica ufficiale palestinese, pensiamo al conflitto Hamas-Fatah. Questa sarà una lunga intifada che si estenderà tra le strade della Palestina e di tutto il mondo, un'intifada che affronterà la mano dell'ingiustizia ovunque essa sia e che fronteggerà i bastoni dell'oppressione ovunque si picchino. Sarà un'intifada che affronterà a petto nudo e a testa alta, con speranza rivoluzionaria, le tue scientifiche e uno sforzo strutturale, personale e collettivo, i proiettili dell'occupazione sionista, ovunque essi sparino. Ecco, questo è il testo dello sciopero del 18 maggio all'interno dei confini ufficiali di Israele, dei territori palestinesi del 48. Uno sciopero che ha paralizzato l'economia israeliana e che è costituito un ulteriore danno per quell'economia già pesantemente colpita dai colpi militari della resistenza. I Razzikas ha stimato che abbiano, negli 11 giorni, abbiano compiuto danni per 2 miliardi di dollari all'economia israeliana. Quello che volevo dire è che in questi giorni la vendetta di Israele contro i palestinesi dei territori del 48, di Gerusalemme e della Cisgiordania, dei territori del 67, si sta compiendo. Era inevitabile che dopo una mobilitazione come questa vi fosse anche una repressione dura. Si parla di, in tutto, da aprile 1800 arresti, 1700 solo a maggio, e arresti che stanno proseguendo in questi giorni a centinaia, anche uccisioni, un ragazzo di 17 anni che si sarebbe lanciato contro e poliziotti sionisti proprio a Sheikh Jarrah con un coltello. Zudi Al-Tawil è caduto martire il 24 maggio, il 25 maggio Ahmed Al-Fad, poi Annablus Zakaria Mayel, il 28 maggio ucciso in scontri con gli occupanti. Quindi la repressione durissima fino agli omicidi politici sta andando avanti, anche come ritorsione, sempre nell'esercizio di quel terrorismo di Stato da parte di Israele, che si vede però non sta piegando il popolo palestinese, non lo sta piegando. Dopo decenni di esercizio di questo terrorismo, il popolo palestinese continua a lottare. Let's go out. Uh-oh. poc'anzi vi dicevo, insomma, di quanto sta succedendo in Palestina e dopo la tregua, o insomma la cosiddetta tregua, perché sì, è vero, i bombardamenti a Gaza si sono fermati, uno dei termini della tregua, i termini della tregua vogliono che si fermino gli sgomberi su base etnica nel rion di Sheikh Jarrah a Gerusalemme e le forze sioniste non invadino più la moschea di Al-Aqsa e la spianata delle moschee a Gerusalemme. Poi vedremo, insomma, sta di fatto che il popolo palestinese ha dimostrato un'unità di lotta anche dentro i confini del regime sionista ufficiali, quindi nei territori del 48, nei territori del 67, ovviamente da Gaza. E questo ha significato una vittoria politica, ma vittoria politica è anche la solidarietà che comunque è venuta dalle piazze di tutto il mondo rispetto alla resistenza palestinese, da Sydney a Milano, anche a Trieste, nel nostro piccolo, a New York, eccetera, cioè mobilitazioni in tutto il mondo in solidarietà al popolo palestinese, un movimento globale come pochi altri. E su questo voglio ricordare un appuntamento: lunedì 7 giugno alle ore 9:30 al Tribunale di Milano si terrà la nuova udienza a carico dei compagni antisionisti sotto processo per la contestazione del 25 aprile 2018 alla presenza delle bandiere israeliane al corteo del 25 aprile, appunto, del 2018 a Milano. Ecco, ci sarà un nuovo presidio, ripeto, lunedì 7 giugno alle 9:30, in loro solidarietà. Ora vi leggerò il testo che hanno scritto per questo nuovo appuntamento. Ora e sempre con la resistenza del popolo palestinese. Lunedì 7 giugno alle ore 9:30 si terrà una nuova udienza del processo contro quattro compagni accusati di aver contestato la presenza delle bandiere sioniste alla manifestazione del 25 aprile 2018 a Milano. Contestazione messa in atto in appoggio alla marcia per il ritorno, con cui in quel periodo i palestinesi rivendicavano il diritto a ritornare nelle loro terre e che grazie ai cecchini sionisti fu pagata con più di 180 uccisi, tra cui 44 bambini e 4 donne, e oltre 20.000 feriti. Questa nuova udienza cade in un periodo in cui altre pagine di sangue sono scritte nella storia della Palestina. Ancora una volta l'eroico popolo palestinese sta mostrando la volontà di non soccombere e di reagire contro il razzismo sionista. Quella di questi giorni di maggio è una rivolta di tutto il popolo, da Gerusalemme Est alla Cisgiordania, alla striscia di Gaza, ai palestinesi dei territori del 48, formalmente cittadini israeliani, che per la prima volta sono scesi massicciamente in campo, prima con la rivolta di piazza e poi con lo sciopero generale totale. Si tratta di una rivolta che ha reagito all'accelerazione della pulizia etnica messa in atto dal regime colonialista, con la caccia all'arabo, la deportazione delle famiglie palestinese e l'assalto alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme Est, nel pieno di una funzione religiosa che vedeva la presenza di decine di migliaia di fedeli. La reazione sionista alla rivolta palestinese ha mostrato ancora una volta il vero volto di questo colonialismo genocida, con bombardamenti massicci, stragi di donne e bambini e distruzione delle condizioni di sopravvivenza della popolazione di Gaza. Scusate. Oggi questo odioso colonialismo, con il progetto della Grande Israele dal Sinai al Golfo Persico, è perfettamente funzionale ai piani imperialisti degli USA e degli Stati europei, di dominio e sfruttamento dei popoli dell'area medio orientale. Per questo le classi dirigenti occidentali, USA e Germania in testa, sono tutte schierate in maniera compatta nel tentativo di rovesciare la storia, riecheggiando la propaganda sionista tesa a far passare gli oppressori come vittime. E non è da meno la classe dirigente del nostro paese che dal PD a Fratelli d'Italia, passando per la Lega e il Movimento 5 Stelle, ha sposato in blocco questa aberrante mistificazione. Dall'altra parte, dalla parte di chi si oppone e lotta, di fronte a questo massacro del popolo palestinese, un'onda di mobilitazione si è levata in tutto il mondo, anche in Italia. Sono manifestazioni che si sono svolte con grande partecipazione, sia nelle città dei cosiddetti paesi avanzati che in quelle dei cosiddetti paesi in via di sviluppo. Manifestazioni che esprimono chiaramente la solidarietà alla giusta causa del popolo palestinese e che hanno visto in prima fila la presenza significativa di ebrei, anche religiosi praticanti, antisionisti, a chiara testimonianza che non si tratta di una guerra di religione, ma di una guerra tra un popolo oppresso e i suoi oppressori colonialisti, fascisti e razzisti. È una mobilitazione che mostra che c'è tanta gente che vede le cose per come sono e non si fa disarmare dalla propaganda prosionista che impera nel sistema dei media occidentali. In tutte le piazze, e anche nella nostra città, abbiamo visto migliaia di giovani immigrati di seconda e terza generazione, principalmente dal Medio Oriente, ma non solo, scendere in campo assieme ai solidali italiani per esprimere una forte presa di posizione contro i massacratori sionisti. Questa mobilitazione ci riempie il cuore e ci rinfranca nella nostra determinazione di rovesciare il processo intentato nei nostri confronti in processo al sionismo come forma particolare di colonialismo di insediamento, simile a quello messo storicamente in atto contro gli indiani d'America, gli aborigeni australiani e i neri in Sudafrica. Da questa mobilitazione traiamo nuova forza e determinazione per portare avanti questa linea processuale con l'idea che possa costituire un contributo allo sviluppo di un fronte antisionista, antiimperialista e antirazzista nei nostri territori. Invitiamo tutti i solidali emigrati a partecipare al presidio davanti al Tribunale di Milano, lunedì 7 giugno 2021 alle ore 9. Tutti gli imputati. Morte all'imperialismo, libertà ai popoli, Palestina libera. Un saluto, ciao. Ecco, mentre lasciamo in sottofondo questa band olandese, i Flesh and Lies, ricordo che siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane a Udine, dalle ore 20 alle ore 21:30. Prima di salutarci e lasciare un ultimo brano, vi ricordo i nostri contatti. Che sono per la posta elettronica, chi ci volesse ovviamente scrivere, libere tutti chiocciola antiautistiche.org, ripeto, libere tutti chiocciola autistiche.org. Inoltre poi c'è chi ci volesse scrivere in forma cartacea, ovviamente diciamo al vecchio metodo, associazione senza sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121 Trieste. Ripeto anche questo, associazione senza sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121 Trieste. E inoltre, per chi volesse riascoltare questa trasmissione o anche quelle scorse, può andare su questo blog che è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto anche questo, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, prima di salutarci, andiamo all'ascolto di questa band di Alessandria, da questo loro ultimo album, anzi uno split assieme ad una band statunitense. Loro sono i Suicide Force e la band americana sono i Death Run. Comunque noi ci ascoltiamo un brano, forse due, di questi Suicide Force. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì. Tengo a dirle che anche a me, come a lei, non pare comico sdraiarsi sopra una tomba, quando è così facile aprirla e sdraiarcisi dentro.